Il punto di Stefano Folli. C'era da aspettarselo, il clima positivo del confronto televisivo fra Renzi e Bersani non poteva durare. È destino che i giorni delle primarie debbano consumarsi in questa coda velenosa. E forse è inevitabile che si verifichi il tentativo dei seguaci del sindaco di forzare il blocco delle regole, diciamo così, per portare al voto quanta più gente possibile. Renzi ha comunque interesse a presentarsi come la vittima di un sopruso. E quella frase, sembra di stare in Bulgaria, è indicativa. Chi si sente in una prigione non vede l'ora di scappare. Renzi prepara una scissione per il dopo primarie? È improbabile e un solo indizio non basta per affermarlo. Ma certo la prospettiva di un periodo fruttuoso in cui lui e Bersani collaborano insieme nel PD rinnovato oggi si allontana. Più facile pensare semmai al sindaco che si ritira irato nella sua Firenze in attesa che l'asse Bersani-Vendola si infranga sui prevedibili ostacoli politici. A proposito, la Corte dei Conti ha bocciato il bilancio del comune fiorentino. Non c'è pace per lo sfidante.